il TDOR Transgender Day of Remembrance, scusate il mio inglese, si celebra da diversi anni in tutto il mondo per far presente alla gente, a noi stesse, la strage, perché così va considerata, di persone trans. Troppe persone trans vengono uccise o vengono aggredite da una transfobia diffusa, a nostro avviso emergente e in crescita. Quindi, per non far passare tutto in silenzio, perché questo è il problema più grosso, anzi diciamo il secondo dopo la violenza e i crimini, è l'indifferenza della gente. Siccome l'indifferenza genera i mostri, noi vogliamo andare a incidere proprio lì, nelle città, nei posti, nei luoghi dove si organizzano le manifestazioni appunto del 20 novembre. Io voglio dire che il fenomeno della violenza, della transfobia, non è una qualcosa che dell'oggi, cioè c'è sempre stata. Il problema è che le persone trans sono diventate visibili da 40-50 anni a questa parte, e ultimamente sull'onda di una destra crescente in aumento che sta sdoganando i peggiori sentimenti e le peggiori cose della gente, chiaramente, come dire, di conseguenza questa violenza sta aumentando, a nostro avviso in maniera smisurata. Quindi la manifestazione di domani è e vuole essere una manifestazione politica, perché è lì che nasce la questione. Ci sono troppe parole e troppe frasi di odio contro le persone trans sparate dai pulpiti alti, sia dei governi sia delle religioni varie, come dire, che ci sono in giro per il pianeta, e questo genera poi la violenza spicciola, cioè ognuno si sente legittimato ad aggredire, a ferire, a uccidere una persona trans, anzi, come dire, sono gesti a loro avviso eroici. Ecco, questo noi non lo tolleriamo, non possiamo tollerarlo e dobbiamo assolutamente mobilitarci. Quello che ci preme è non tanto affidarci alle politiche, perché sappiamo come stanno andando o come sono andate, ma quello che ci preme è sensibilizzare le persone e far sì che non sia un affare solo una questione, un problema solo delle persone trans, circoscritto al mondo trans. È un problema di tutti, assolutamente di tutti, perché una società avanzata, non so come definirla, non può tollerare che tutto questo succede, perché succede con noi trans, succede con gli immigrati, succede con tutte le cosiddette minoranze, con tutte le diversità, con tutte le categorie altre dalla cultura dominante. Ecco. In particolare a Bologna, tra l'altro nella conferenza stampa in cui è stata presentata appunto, in cui sono state presentate appunto le iniziative di domani, è stato presentato anche il progetto internazionale che si sta tenendo a Bologna, che è curato dal MIT, Transitional State, sì. Che comunque, insomma, anche il fatto che siano presentate contemporaneamente sia appunto il TDOR, ma anche poi un progetto invece di formazione, forse sottolinea più che di quanto stiamo facendo noi a parole, di come effettivamente ci sia una necessità proprio anche di formazione, di informazione, di diffusione di saperi che spesso vengono un po' marginalizzati, perché c'è anche un'ignoranza forse diffusa che poi contribuisce a questa violenza. Noi abbiamo organizzato Transitional States, il nome della rassegna, in contemporanea al periodo del TDOR e della giornata mondiale contro la violenza alle donne, perché le due cose non sono separate, stanno insieme. Transitional States è una rassegna che ha coinvolto tre paesi, l'Inghilterra, la Spagna e l'Italia, per l'Italia Bologna per l'esattezza. Comprende una serie di dibattiti, uno c'è già stato la settimana scorsa nella sede del MIT, più una mostra fotografica e delle forme varie di comunicazione sulla questione ormoni e medicalizzazione dell'esperienza trans. È organizzato negli ambiti accademici, ma è stata raccolta anche dall'associazionismo, dall'attivismo che sta facendo girare questa rassegna. Bologna, fortunatamente siamo riusciti a captarla, questi giorni la si potrà seguire, ecco, in tutti i suoi aspetti, perché chiaramente il discorso della violenza, della transfobia, lo si combatte anche con la comunicazione con la cultura, facendo arte e cultura, trasmettendo dei valori altri e uscendo dagli stereotipi e dai luoghi comuni che molto spesso ci attanagliano. Ti faccio un'ultima domanda, che è: quali sono gli altri appuntamenti a Bologna per questa giornata? Allora, l'appuntamento per il TIDOR, che il 20 novembre, come in tutto il mondo, saremo alle 7, quindi alle 19, scusate, in Piazza del Nettuno. Prepareremo questo enorme struscione su cui scriveremo i nomi delle persone trans uccise nell'ultimo anno. E poi continueremo con una passeggiata fino a Piazza Scaravilli, dove verranno letti i nomi e per ogni nome è accesa una candela. Questo è il rituale che si svolge in tutto il mondo in maniera uguale, ecco. Poi con il tutto, attraverso, non lo so, riunioni, dibattiti, anche preparativi, semplici preparativi per la giornata del 25 a Roma, per la manifestazione Non Una di Meno, rispetto alla quale ci sentiamo intrecciati, condivisi e sentiamo entrambe nello stesso percorso, perché la violenza alle donne, la violenza alle persone trans, pensiamo che abbia la stessa matrice. Poi invece su Transitional State ci sono dei giorni, allora l'inaugurazione sarà il 22 novembre con questa mostra alla galleria, però scusatemi, non mi ricordo i termini, i nomi, perché sono bloccato nella neve, questo è il mio problema, quindi faccio un po' confusione. Comunque l'inaugurazione è il 22, ma trovate tutto nei programmi anche sulla pagina Facebook del MIT, giro negli eventi di questa settimana, e proseguirà con altri tre dibattiti nella sede del MIT da qui all'8 dicembre.